Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno dottoressa, pronto? Sì. Cioè, ci siamo un po'. Qua siamo dottoressa, infermiere, sì, giornalista, conduttrice. Mauro. Buongiorno, salve, ascolti, niente. Buongiorno, dottoressa, grazie. Buongiorno nuovo e spero che sia buono anche per te. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award the 2014 Nobel Prize in Physiology or Medicine with one half to John O'Keefe and the other half jointly to Maybrit Moser and Edvard Moser for their discoveries of cells that constitute a positioning system in the brain. Eccoci qua, oggi a Cuore Denari parliamo del GPS biologico, quel raffinato sistema che ci permette di avere le coordinate spaziali del luogo in cui ci troviamo e che è stato individuato da John O'Keefe, dai coniugi Maybrit e Edvard Moser, che hanno per questo ricevuto, come avete sentito dalla nostra clip nei giorni scorsi, il Nobel della Medicina. Allora, se il nostro cervello ci aiuta a non perdere la strada, noi dobbiamo, da parte nostra, attivarci per mantenere questa sua attività molto efficiente. Allora, oggi regole e istruzioni per non mandare in panne il nostro GPS biologico e nel caso consigli per fargli ritrovare la strada. Sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa, sentire. Oltre alla musica abbiamo nel nostro cervello questo raffinato sistema che ci aiuta a non perdere la bussola, ci dice dove siamo, ci mette in condizione ad esempio di individuare il percorso per andare da un posto all'altro, di memorizzare le informazioni in modo che la prossima volta possiamo subito ritrovare la strada e anche evitare i pericoli. È straordinario, è una cosa sorprendente, leggevo un pezzo di Boncinelli che scrive che è sorprendente scoprire che noi utilizziamo nella vita di tutti i giorni una versione artificiale di ciò che la natura già predisposto per noi. E allora vi chiedo, voi immaginavate l'esistenza di questo sistema di orientamento incorporato o l'avete scoperto con l'assegnazione del Nobel? E che effetto vi ha fatto? 800 24 00 24, orientatevi verso il telefono e chiamateci, diteci anche come vi sembra che funzioni il vostro GPS biologico, se avete un innato e spiccato senso dell'orientamento o senza mappe e navigatori siete un po' persi. Oggi cercheremo di capire come mantenere questo funzione attiva ed efficiente, proteggendola anche da interferenze esterne che possono minare la sua attività. E a proposito di orientamento, nella nostra giornata possono capitare talvolta piccoli avvenimenti che ci turbano, ci disorientano un po', in alcuni casi ci spaventano anche e ci fanno stare in pensiero. Ad esempio, vi è mai capitato di ricevere una telefonata muta a casa vostra o sul vostro cellulare? Possiamo pensare a tante cose in questa situazione che può rivelarsi molto fastidiosa. In molti casi però si tratta solo, e si fa per dire, di pratiche di telemarketing un po' aggressive. Dal 2 ottobre scorso però i call center devono rispettare nuove regole fissate dal garante della privacy per proprio mettere fine a questo fenomeno. Noi ne parleremo nella seconda parte di Cuore Denari dopo il GR delle 12. Voi intanto raccontateci se vi è capitato di ricevere ripetutamente telefonate senza che ci fosse nessuno dall'altra parte della cornetta, oppure se avete ricevuto delle proposte commerciali via telefono anche un po' insistenti. 800 Carmelo Lauricella fa segno di sì, anche lui è capitato in questo girone infernale. Con il nostro esperto cercheremo di capire se è possibile evitarlo e soprattutto come uscirne. 800 24 00 24. Gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità. E noi abbiamo cercato un esperto che potesse aiutarci oggi a capire qualche cosa di più di questo GPS biologico che ci entusiasma, ci affascina. Abbiamo in linea con noi il professor Giorgio Guidetti, responsabile del servizio di audiovestibologia e rieducazione vestibolare USL di Modena, ospedale Ramazzini di Carpi. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a tutti. Professore, lei potrebbe meritarsi a pieno titolo, come gli altri suoi colleghi che si occupano di vestibologia, l'incarico di manutentore o revisore del nostro GPS biologico, perché si occupa di labirinto, che è la centralina del nostro equilibrio, e se l'equilibrio non c'è, diventa difficile, molto difficile, capire già se siamo in piedi, figuriamoci capire dove siamo e dove vogliamo andare. In effetti è proprio così, ma soprattutto in relazione particolare al funzionamento di questo cosiddetto GPS, bisogna tenere presente che quando un labirinto non funziona, il GPS dello stesso lato, perché abbiamo in realtà due GPS che lavorano in coppia, una a destra e una a sinistra, e uno dei due praticamente comincia a non funzionare, quindi abbiamo più alti rischi di disorientamento e di perdita così di capacità di orientamento spaziale. E quindi tutte le malattie dell'orecchio che colpiscono il labirinto sono in grado di interferire in maniera importante con questo meccanismo di orientamento nello spazio e di riconoscimento dei percorsi. Oggi quindi torneremo col professor Guidetti a parlare di labirinto, di equilibrio, di vertigini, 800 24 00 24, ma professore, intanto invito i nostri ascoltatori a chiamarci. Ma mi spiega un po' come faccio a sapere se il mio, a questo punto devo parlare di plurale, i miei GPS funzionano bene, ad esempio, se trovo la strada facilmente, se non mi perdo quando sono nei megastore, se andando a visitare una città, ritornando a distanza di mesi o di anni, ritrovo un po' le strade, qual è l'indicatore che mi permette di capire che ho un GPS che funziona bene? Per esempio le situazioni di cui ho appena parlato sono certamente degli ottimi indicatori di questo tipo di rischio, ma anche per esempio se la notte quando ci alziamo non ritroviamo il percorso giusto per andare in bagno, per dire, oppure se nel praticare alcuni sport tipo pallavolo, pallacanestro, calcio, che richiedono degli schemi con una mobilità preordinata, non riusciamo a eseguire bene questi schemi, arriviamo un attimo più a destra, un attimo più a sinistra, oppure non ci arriviamo proprio nel punto dove ci aspetta il lancio della palla, per esempio. Questi sono tutti dei segni di possibile difficoltà di orientamento spaziale rapido e quindi capacità di ricordare i percorsi che sono stati studiati e previsti per quel tipo particolare di attività. E anche a che fare con il coordinamento motorio, ad esempio penso al ballo. Ci sono delle persone che non riescono, che pur avendo un ballerino che le porta, non riescono a mettere bene i piedi uno dietro l'altro, rimangono sempre un po' sfasate. È sempre il problema del nostro senso di orientamento oppure un'altra faccenda? No, lì è direttamente legato alla difficoltà di coordinazione nel caso che ci sia una patologia o del labirinto o degli organi deputati al controllo dell'equilibrio propriamente detti. Sono un po' diversi da quelli di disorientamento. Le due cose possono benissimo coincidere, questo certamente, però ecco, ma se sono isolate interessano due zone diverse. Professore, noi spesso, almeno io pensavo, che l'orientamento derivasse in gran parte dagli stimoli visivi, no? Per noi, per non perderci, noi ci fissiamo dei punti, un edicolo, un negozio, una chiesa. Però lei ha fatto degli studi sui non vedenti, in particolare su una grandissima sportiva che è Cecilia Camillini, un'atleta non vedente, campionessa europea, mondiale, paralimpica nello stile libero e nel dorso. Chiudo la parentesi perché voglio ricordarla, e ha scoperto degli aspetti molto interessanti. Proprio ieri si è celebrata, ho avuto il piacere di moderare alla Camera la giornata mondiale della vista, e oggi mi fa piacere tornare a parlare di non vedenti con lei, che li ha studiati in modo molto rigoroso. Sì, si può dire che per esempio una grande scoperta che abbiamo fatto è che la sua capacità di orientamento è perlomeno uguale, se non superiore, a quella dei soggetti normali o di altri sportivi, calciatori, ballerini, sportivi vari. Questo perché ha imparato con tecniche di allenamento specifico ad orientarsi nel buio in maniera fantastica, e quindi riconosce perfettamente le traiettorie, riesce a mantenere le traiettorie nella vasca, sa quando si lancia dove è la sua corsia, riesce a seguirla, insomma è una dimostrazione, questo nella vita normale, poi nei test che facciamo si vede maggiormente come questo dato sia appunto assolutamente straordinario, e lì probabilmente la sua grande capacità e di acquisire anche dei grandi risultati, perché non sbaglia la traiettoria, che non vedente in una vasca da nuoto naturalmente è un elemento fondamentale per la performance. Andiamo ad Alberto che ci chiama da Como all'800240024. Buongiorno Alberto e benvenuto. Buongiorno, grazie a lei. Allora, io volevo brevemente raccontare due episodi che secondo me hanno a che fare con quello che riferisce il professore sulla capacità di orientarsi in modo spaziale. Due episodi brevi. Allora, io ho attraversato una volta Bologna dovendo uscire dall'autostrada perché era bloccata di notte seguendo la luna e non ho avuto alcun problema nella direzione, l'ho seguita in modo molto preciso. In un'altra occasione, in uno stato estero lontano, completamente diverso dal nostro, sono riuscito senza l'utilizzo volontario di sistemi tipo il GPS, tipo i navigatori, a raggiungere la meta che dovevo, proprio per non dover dipendere da questi strumenti, e l'ho fatto senza alcuna difficoltà, cioè con dei riferimenti, diciamo così, rispetto ai punti cardinali, ecco. Insomma, un GPS molto efficiente quello di Alberto, professor Guidetti. Non è un GPS efficiente il suo è una capacità di orientamento utilizzando segnali visivi. Il GPS funziona su percorsi memorizzati. Cioè, è come se lui dicesse, anche senza la luna, avendo già girato per Bologna, anche a occhi chiusi riesco a fare lo stesso percorso. Questa è l'attività del GPS. Alberto, il secondo episodio? Il secondo episodio è accaduto in Florida, in un posto dove io non ero mai stato, ho dovuto attraversare la Florida. Lì tutti, quando si noleggia una macchina, vogliono dare a tutti i costi il navigatore satellitare. Io non l'ho voluto e ho raggiunto comunque la meta, orientandomi, ripeto, tenendo conto dei punti cardinali. Alberto, il professor Guidetti ha precisato che non è il GPS il suo senso dell'orientamento, ma io le faccio i complimenti perché devo dire che io mi perdo facilmente e non riesco a usare, professor Guidetti, non so se questo è strano, non riesco neanche a usare il navigatore, il GPS, perché mi confondo ancora di più. Per cui vago, cioè devo affidarmi al mio orientamento, devo mettermi dei punti e poi sperare di trovare la strada. Professor Guidetti, perché ci sono delle persone come me, e ho visto che ce ne sono alcune, che si confondono, non riescono a attivare questo GPS evidentemente con delle informazioni che arrivano dal GPS, quello che mettiamo nella macchina, e quindi sonore, di segnalazione? È una questione di difficoltà di interpretazione da parte del cervello dei segnali che provengono dall'esterno, quindi dai segnali acustici, visivi o del labirinto stesso. Oppure ci può essere anche un'interferenza preoccupante, diciamo, di fattori emozionali. Siccome questo GPS, fra l'altro, è strettamente legato all'attività anche di un'altra zona lì vicina, che si chiama amigdala, tante volte succede che esperienze precedenti preoccupanti possono condizionare poi la nostra capacità di orientamento e di anche seguire certi percorsi, perché diventa preponderante, diciamo tra virgolette, la paura o la tensione rispetto all'attenzione prestata per il percorso stesso. Silvia mi scrive al 349-238-6666 che invidia ho per quelli che si orientano, mi perdo nelle rotonde nuove vicino a casa. 800-24-0024, se volete intervenire con noi. Professor Guidetti, lei oggi ci deve aiutare a proteggere anche questo sistema, che può essere danneggiato da alcune interferenze esterne. Sì, certamente. Allora, naturalmente le malattie specifiche di questo GPS, che poi si chiama ippocampo, come i cavallucci marini, per capire, perché è fatto proprio come un cavalluccio marino nella zona principale, poi ce ne sono altri intorno, insomma l'immagine è proprio quella di un ippocampo. Ecco, è chiaro che è sottoposto al rischio di tutte le malattie del cervello, no? Quindi naturalmente problemi vascolari, al limite anche problemi degenerativi o tumorali, che sono più rari, insomma comunque problemi vascolari, specialmente nella terza età, sono frequenti, no? Quindi piccole zone che soffrono lì, uno può avere dei problemi di memoria e quindi anche di memoria cosiddetta topokinetica, cioè proprio la capacità di riconoscere gli spazi, i percorsi. Sì. Questo è se proprio viene colpito lui. Naturalmente, come abbiamo detto prima, qualsiasi malattia dell'orecchio cronica, che in Vogliamo ricordare quali possono essere le malattie dell'orecchio croniche? Le malattie dell'orecchio croniche possono essere, per esempio, un dato di un danno provocato da un virus in maniera acuta che poi non guarisca a carico del labirinto, possono essere delle malattie come la malattia di Meniere, quella malattia piuttosto antipatica che provoca un calo progressivo dell'udito, delle vertigini ricorrenti con un danno al labirinto, possono essere appunto malattie vascolari o degenerative a carico del nervo o dell'orecchio, possono essere, queste sono quelle più comuni, diciamo, certo. Queste quando colpiscono nel tempo danno una progressiva sofferenza, anche è stata una scoperta degli ultimi anni queste, perché prima non sapendo che c'era il GPS non se ne cercava neanche le malattie, no? Adesso sapendo che c'è il GPS sappiamo anche quali sono gli elementi in grado di danneggiarlo. E il labirinto si è visto che purtroppo, dico purtroppo perché non è difficilissimo che si ammali, è un elemento che è in grado di alterare queste capacità. È un po' come se togliessimo un po' la corrente, tra virgolette, al nostro GPS, se abbiamo delle malattie non diagnosticate, non curate al nostro orecchio e nelle cellule vestibolari, è corretto? Esattamente, viene a mancare la benzina che fa andare questo GPS. Si spegne, anche dal punto di vista delle certe immagini bellissime di risonanza magnetica funzionale, un esame nuovissimo, particolare, che si fa per la ricerca, si vede proprio che si spegne, cioè come se non esistesse più, si spegne. Quindi noi abbiamo un solo GPS, mentre ne servono due che lavorino insieme, preferibilmente. Andiamo a Roma, c'è Cristina che ci aspetta all'800 24 0024, benvenuta Cristina. Buongiorno. Buongiorno. Mi ha fatto un'autodiagnosi, non lo so, perché io l'equilibrio ce no, l'ho spero, perfetto. Spero il professor Guidetti e non io, perché sulle, sì, mie, no, sulle mie diagnosi c'è da... Ah, meno male. No, professore, perché il mio equilibrio è perfetto, è coordinazione perfetta, sono molto sportiva, insomma faccio le follie nella vita normale, solo che quando mi metto in macchina o anche a piedi, io se non ho un navigatore che mi dice dove devo andare, io non vado a destinazione da nessuna parte, mentre mio figlio, mio marito, ma è facile girare a destra, io puntualmente giro a sinistra e mi perdo e loro tranquilli, quindi io non lei ho mi chiami Cristina niente. Perché così siamo in due. Professor Guidetti, cosa facciamo? Beh, bisognerebbe fare dei test di navigazione, sono dei test che si fanno per capire se c'è questa capacità, diciamo, di orientamento. E poi naturalmente cercare, qualora risultassero negativi, dei problemi diversi di quello di essere semplicemente un po' sbadato e in difficoltà nell'effettuare quel tipo particolare di prestazione, ecco. Perché capita anche quello, cioè c'è gente poco predisposta, come c'è gente poco predisposta a imparare a giocare a tennis, ci sono persone poco predisposte a orientarsi, senza che debba essere per forza una malattia, per fortuna. Quando è una malattia ci se ne accorge dai test che documentano un particolare tipo di difficoltà. A proposito di malattie, stanno già arrivando molte domande, professor Guidetti, perché lei, come sai, è intervenuto tante volte a Essere Benessere a Cuore Denari. Il problema dell'equilibrio e delle vertigini è un problema molto sentito, non solo dagli ascoltatori di Cuore Denari. Di questo parleremo, cercheremo di capire se quel senso di vertigine o di instabilità può in qualche modo danneggiare il nostro sistema di orientamento, capire se ci sono delle opportunità di cura. E soprattutto cerchiamo di capire qual è la strada per arrivare ad una diagnosi corretta. 800 24 0024 se volete. Sentiamo i mercati. Eccolo qua, intervenire adesso i mercati. Cuore e denari. Non occupatemi il telefono, dal mio amore dovrò sapere se vuole ancora ritornare da me. Una situazione strana che ci disorienta. Prima ci chiediamo chi potrebbe essere, magari pensiamo ad un familiare, ci preoccupiamo, poi pensiamo a qualcuno che abbiamo cercato, potrebbe aver provato a richiamarci. Quando però le telefonate mute si fanno frequenti, qualcuno potrebbe anche preoccuparsi un po', pensare ad un malintenzionato, più semplicemente un po', insomma, infastidirsi, no? Perché ormai si sa, quasi sempre dietro questo fenomeno ci sono delle pratiche commerciali un po' aggressive, però su cui ora il garante della privacy ha stabilito delle regole chiare. Allora, l'invito per oggi è: chiamate il nostro numero verde 800 24 0024 e raccontateci se vi è capitato di essere bersagliato da queste chiamate mute o, dico io, anche parlanti. Come vi siete comportati, a chi vi siete rivolti? Dopo il GR delle 12 ne parleremo e vi daremo consigli utili sui diritti diritti che abbiamo come consumatori e come farli rispettare. Forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù. La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Sarà, ma vertigini, capogiri, quel senso di sbandamento, perdita improvvisa di equilibrio, sono veramente sensazioni molto fastidiose. Noi ci fidiamo del professor Guidetti, che ci aiuta a fare un po' di chiarezza. Perché, professor Guidetti, a proposito di orientamento, tutti questi disturbi a cui si accompagnano a volte nausea, tachicardia, sensazioni di svenimento, spaventano parecchio e creano un po' di disagi a chi li sperimenta, perché sono sintomi, lo sappiamo, che insomma a volte sfumate, a volte che proprio ci impediscono quasi di alzarci dal letto. Allora, fare la diagnosi, lei l'ha ripetuto tante volte, è fondamentale, ma non sembra così semplice. E chi soffre di questi problemi spesso si trova disorientato e passato come una pallina di ping pong, da uno specialista all'altro. Professor Guidetti, partiamo da qua. Beh, certo, il ping pong è un bello sport, ma non per un paziente che finisce per non sapere da che parte è del campo. E naturalmente questo nasce dal fatto che per tanti anni non esistevano specialisti, diciamo, deputati prevalentemente ai disturbi dell'equilibrio. Adesso si chiamano vestibologi, qualcuno li chiama anche otoneurologi, per dar l'idea che devono avere una competenza mista. Sì. Devono essere in grado quindi di cogliere il tipo di disturbo, identificarlo con maggiore precisione e consentire quindi una terapia mirata sulla causa o sulla rimozione del disturbo stesso. Di solito sono di origine otorinolaringoiatrica o neurologica, ma hanno sviluppato questo particolare tipo di esperienza, la vestibologia. Professore, vogliamo aiutare i nostri amici da casa cercare di un pochino di descrivere bene il loro problema e di capire qualche cosa di più? Sì, possiamo dire due cose intanto di base. Per chi ne ha sofferto è già facile riconoscersi. Se hanno visto il mondo improvvisamente girare violentemente intorno a sé, quindi le pareti di casa, il lampadario che ruotavano, si muovevano violentemente anche solo per pochi secondi, sono quasi sicuri che si tratti di una malattia del labirinto. Se invece hanno un senso, diciamo, cronico di instabilità, di insicurezza, un'incoordinazione del movimento, la tendenza a cadere senza aver mai visto girare il mondo, è più facile che abbiano una malattia che ha colpito il sistema nervoso centrale, cioè il cervello o il cervelletto. Naturalmente in questi casi di solito si associano anche altri sintomi un po' più importanti e che di per sé orientano abbastanza verso una malattia del cervello. Ma queste sono queste due domande, provate a rispondere, e intanto questo è un po', sono due domande di orientamento, possiamo dire così, ripeschiamo la parola chiave di oggi. Intanto abbiamo Claudio che ci chiama da Venezia all'800 24 00 24, e poi tanti messaggi che stanno arrivando che voglio leggerle per dare voce anche agli ascoltatori che ci stanno scrivendo. Claudio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Eccoci qua. Sì, praticamente io ho un problema, diciamo così, più di equilibrio che si presenta ad intermittenza, e questo purtroppo mi ha portato a non aver ancora sentito un medico, e faccio mea culpa di questo. Comunque sostanzialmente questo è il problema, soprattutto quest'estate si è presentato in ferie, che praticamente dovevo attraversare una zona, diciamo così, naturale con dei ponticcioli che attraversavano dei corsi d'acqua, e questi ponticcioli, nonostante fossero larghi comunque circa un metro e mezzo, e fossero privi di pareti ai lati, di corrimano, diciamo così, ho avuto difficoltà ad attraversarli perché avevo proprio il senso di non riuscire a percorrerli nella loro lunghezza, e con la paura, con il timore di finire in acqua, nonostante insomma un metro e mezzo di larghezza, certo, non sia poi così piccolo. È vero, Claudio, professor Guidetti aggiunge una descrizione che mi sembra che sia ancora diversa dall'equilibrio e dal disequilibrio dalle vertigini, no? Sono la paura dell'altezza, dei luoghi aperti o chiusi, quella sensazione di sbandare o di sprofondare, anche l'insicurezza nel camminare. Tutte queste sensazioni rientrano nel grande capitolo dei problemi di equilibrio? Sì, assolutamente sì, anche perché recenti scoperte, siamo sempre in un mondo che fino a 20 anni fa praticamente non esisteva, perché le neuroscienze hanno invaso anche l'apparato vestibolare, l'equilibrio eccetera in maniera molto importante, e ci hanno permesso di sapere che dal 30 al 50% delle persone che hanno questa sintomatologia, cioè paura degli spazi larghi, paura degli spazi chiusi, paura dell'altezza, in realtà hanno avuto magari da bambini un danno al labirinto e poi hanno sviluppato una situazione anomala di adattamento a questa lesione che si è trasformata in una sorta di fobia. E questo naturalmente va affrontato sempre in parallelo tra uno psicologo e un esperto dell'equilibrio, intanto per vedere se appartiene a quel 30-50% dove c'è anche una lesione vestibolare, perché se non c'è il fenomeno è principalmente di tipo psicologico, quindi va affrontato con le metodiche adeguate a opera di psicologi e psicoterapeuti, insomma. Professore, spesso per noi è difficile fare una distinzione tra vertigine e disequilibrio. Per voi che siete addetti ai lavori non sono la stessa cosa, noi invece tendiamo un po' a fare di ogni erba un fascio. Ci dà qualche indicazione? Beh, allora la prima cosa è guardare un attimo quando va in centrifuga la lavatrice. Se la sensazione è stata simile a quella, siamo sicuri di poter parlare di vertigine. Sì. C'è proprio di qualcosa che ruota, che gira. Può essere che ci sentiamo noi in un turbine, o può essere che vediamo il turbine nella casa intorno a noi, no? Entrambi i casi sono abbastanza tipici di una malattia del labirinto. Di solito sono fenomeni acuti che spaventano moltissimo, perché uno si immagina di avere chissà che cosa. Generalmente non si tratta di malattie gravi, nel senso che non comportano rischi per la vita, ma sono malattie da affrontare subito per evitare che cronicizzino sotto forma di instabilità. Queste sono le cose più importanti da sapere. Cioè, se uno ha visto girare il mondo, prima si fa vedere, prima si fa curare, meno pensa di avere problemi che non c'entrano col labirinto, meglio è. Se no rischia di diventare davvero quel giochino del ping pong, magari di finire in mano a specialisti che nel loro campo sono bravissimi ma che non c'entrano con la patologia specifica, come per esempio chi si occupa di problemi del collo, dell'artrosi cervicale eccetera, che non dà mai il mondo che gira. Ecco, quello invece per tanto tempo si è legato, no? La vertigine, il capogiro a un problema della cervicale o del colpo, e quindi del colpo di frusta. E purtroppo è così, perché il tempo non è stato sufficiente, forse perché tutti imparassero che insomma la vertigine non può essere messa in diagnosi differenziale con una malattia del collo di qualsiasi tipo, in quanto ormai si è scoperto nel tempo insomma che quello che si pensava, cioè che ci potesse essere un qualche modo dell'artrosi di andare a interferire con la circolazione causando questi disturbi, è una cosa che si sa ormai da 50 anni che non è vero. Quando un soggetto ha visto il mondo girare violentemente può star sicuro che il collo non c'entra, e se avverte dolori contemporaneamente al collo deve sapere che è una reazione muscolare di adattamento che il corpo crea per salvaguardarsi da quel senso di instabilità che si è generato. È vero il contrario, quindi più spesso una mal di collo quando ha le vertigini che non avere le vertigini a causa di un mal di collo. Professore, si va dal medico, si fanno gli esami, ma anche a volte capita che la visita otorrinolaringologica non rilevi nulla, ma i sintomi persistono. Allora, per questo motivo spesso si cerca altrove, no? Intanto bisogna che la visita sia stata fatta correttamente con l'uso di appropriate lenti che consentano di visitare il malato al buio. Altrimenti, siccome il corpo umano, il cervello in particolare, sono bravissimi a correggere i difetti, può succedere che se un soggetto non viene visto in fase acuta, apparentemente non si trovi nulla se non ci sono gli strumenti adeguati per andare a cogliere i segni piccoli che si vedono appunto in quelle condizioni, in particolare se non viene al buio con delle macchine apposta che sono delle specie di maschere dotate di telecamera a infrarosso che ci consentono di vedere bene quello che succede. Se anche questo è negativo, allora giustamente si cerca in altre direzioni, quindi per esempio appunto se c'è un senso di instabilità si può andare a valutare naturalmente com'è la situazione cerebrale, poi come sono messi i muscoli cervicali, come sono messi i muscoli masticatori, se ci sono dei problemi di statico, di dinamica. Cioè quello che lei ci dice, quindi salviamo il labirinto, andiamo a vedere se non ci sono dei problemi legati al vestibolo e poi procediamo con eventuali altre indagini. Però sì, questo, ecco, proteggere il labirinto, lei ha particolarmente a cuore il labirinto perché se ne occupa da anni, ma soprattutto anche perché alla luce di quello che ci siamo detti, di cui abbiamo parlato oggi, danni al labirinto possono interferire sul funzionamento di questo nostro sistema di orientamento che ha fatto vincere il Nobel ai tre scienziati. Professor Guidetti, voi parlate ancora di labirintite o avete cancellato questa parola? Beh, insomma, labirintite è un termine di uso così un po' generico, andrebbe a identificare un'infiammazione del labirinto, per essere precisi, una malattia estremamente rara, insomma. Generalmente noi per labirintite intendiamo generalmente le vertigini. Ma sì, una malattia generica del labirinto, si dice, beh, ho avuto una labirintite, in realtà, insomma, le labirintite sono rare, mentre le cause dei vertigini provocate da un danno del labirinto hanno altri nomi, come dicevamo, malattia di Meniere, labirintolitiasi, neuronite vestibolare. Insomma, non ci facciamo mancare niente. Adesso, no, ne abbiamo finché vogliamo. Ecco, adesso anche... Sta per andare in onda il traffico. Cuore e denari. Sta succedendo un fenomeno strano. Si ha proprio come la sensazione che il terreno sia alquanto malfermo. Insomma, si fa fatica a stare in piedi. Manca proprio l'equilibrio. All'inizio credevo fosse un fatto mio, personale. Ero un po' preoccupato. Poi, guardandomi più attentamente in giro, mi sono accorto che la gente non è perfettamente in asse. Un magnifico Gaber, professor Guidetti. Lei lo conosceva questo, se lo ricordava questo pezzo? Sì, sì. Praticamente l'ha scritto quasi pensando a lei. E noi torniamo a parlare di equilibrio, a cercare di capire l'origine di quelle strane sensazioni in cui ci sembra di avere un po' la terra che ci manca sotto i piedi, oppure di essere infilati dentro una centrifuga. Tantissime le telefonate, abbiamo Redi che ci chiama da Torino e poi anche da Torino Marisa. Redi, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Io sono un ragazzo di 29 anni, chiamo da Torino. Sì. Allora, il mio problema è che 14 anni fa ero andato in una discoteca a Londra, la musica era troppo forte, da allora sento un fischio nelle orecchie, 24 sì. su 24. Mm-hmm. Vorrei sapere... Non si è mai fatto vedere, Redi? No, mi sono fatto vedere, però i dottori non mi hanno dato nessuna risposta. Allora, non hanno dato grande soddisfazione a Redi, vediamo se riesce a darle soddisfazione il professor Guidetti. Un trauma acustico, quello di Redi? Mi sono azzardato? Sì, dai, ho fatto il dutour. Andava affrontato nei primi giorni e si sarebbe potuto tranquillamente risolvere senza grandissime fatiche. Adesso, se la questione è diventata cronica, occorre fare tutta una serie di accertamenti per andare a verificare con maggiore precisione qual è il punto che ha creato questo tipo di diciamo segnale d'allarme proveniente dall'orecchio e verificare se curando l'orecchio si riesce ancora a rimuoverlo, oppure se questo segnale, diciamo per capirci, è andato nella memoria, sì. Quindi se come memorizzato, allora il lavoro diventa molto più difficile, non impossibile, ma molto più difficile, perché va rimosso dalla memoria e non solo curato l'orecchio che l'ha generato. Quindi ecco, la storia di Redi ci insegna che, professor Guidetti, che noi vogliamo sempre dare delle indicazioni molto pratiche e possibilmente dei consigli di prevenzione. Può capitare che andando magari in discoteca. Allora, diciamo che uno studio recente fatto all'Università di Anversa, che è estremamente interessante perché è fatto nelle scuole e nelle università, ha documentato come l'uso abituale delle generazioni più giovani di strumenti diciamo per ascoltare la musica e soprattutto a un volume abitualmente superiore a quello necessario. Mm-hmm. Genera quella che sono due fattori, può generare acufeni come nel caso che sono questi fischi nelle orecchie, i rumori che uno sente nell'orecchio, ma anche iperacusia, cioè associati a una sensazione di, può crearsi fino a un certo momento quasi un fastidio al rumore, e quindi il rumore e il fastidio del rumore sono due cose che possono comportare dei danni, oltre naturalmente a provocare un danno all'udito stesso se la cosa diventa cronica. Quindi questi studi dell'Università di Anversa hanno richiamato proprio l'attenzione sulla necessità di ragionare un attimo meglio sulle modalità di utilizzo della musica e comunque dei suoni. Ecco, nostre, proviamo a dirlo ai nostri ragazzi, spesso sembra una battaglia un po' persa, professor Guidetti, perché i ragazzi poi fanno un po' quello che vogliono, ma noi cerchiamo di ricordare che insomma la musica all'alto volume può in qualche modo danneggiare il sistema uditivo. Marisa, buongiorno, ci chiama da Torino. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono un'ex ragazza e ieri che ero in una situazione del tutto tranquilla, tipo in biblioteca a leggere, sì, di colpo sono sentita venire appunto tutto il mondo girare, il mondo, la stanza, e soprattutto tutta come dire, bagnata di sudore e con il buio. Sì. Ha preso un'ansia pazzesca. Uno sciupun, come si dice a uno Torino. Sciupun. Ecco, Marisa. Uno sciupun. Professor... Ma una cosa, sì, volevo dire che mi ha anche colpito, che mi era già successo, siccome non c'è continuità, no? Cioè, nel senso che un episodio simile mi era accaduto 6-8 mesi fa. E anni fa, no? Poi sono andata dal medico di base, il quale ti manda in loop, cioè da... Infatti, quando avete usato la pallina da ping pong, lei ha detto sì, quante volte l'ho pensato. Marisa, allora vediamo se il professor Guidetti ci... Professor Guidetti, il buio. Allora, giramento di testa, vedeva tutto nero, uno sciupun, dicono a Torino, non so come si dica da lei, ma sicuramente questi sintomi, queste se le sente raccontare spesso. Allora, tanto diciamo che nelle giovani donne dei piccoli episodi di tipo vascolare limitati a se stessi, legati a cali improvvisi della pressione, anche su base ormonale, sono abbastanza frequenti, non dovrebbero spaventare. Chi soffre di mal di testa, di emicrania, si è abituato ad avere di queste sensazioni qui, che sono considerate anche spesso e volentieri degli equivalenti dell'attacco di mal di testa senza dolore. Sì. Ecco, queste due cose sarebbe come dire, non c'è niente di drammatico, di preoccupante, però prima di dire che è una di queste due la causa, sarebbe meglio naturalmente andare a verificare che non ci fossero altri problemi. Insomma, statisticamente parlando ci possono essere altri problemi, anche se non sono molto probabili. Una visitina però fatta, una visitina, come dice il professor Guidetti, ci piace. Pensiero, eh? Dai. Professor Guidetti, grazie per essere stato con noi, ci ha un po' orientato e anche tranquillizzato. Intanto le auguro una buona giornata. Grazie, andiamo a vedere i malati di equilibrio, quelli che stanno davvero male, cosa ci raccontano oggi. Grazie professor Guidetti. Grazie a lei, arrivederci. Allora, salutiamo e ringraziamo il professor Guidetti. A proposito di orientamento, vi segnalo che oggi col Sole 24 Ore c'è uno speciale dedicato a come si paga la TASI. Dato che la scadenza è giovedì 16 ottobre, questa guida è sicuramente utile ad orientarci, per cui se ancora abbiamo le idee un po' confuse possiamo riascoltare le puntate di Cuore Denari ed andare in edicola. A proposito di appuntamenti, oggi voglio segnalarvi che è la Giornata Mondiale della Salute Mentale. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Liana Rosenthal, che è vicepresidente dell'associazione Progetto Itaca. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Vogliamo ricordare questa giornata, una giornata importante sempre, e oggi in questo periodo particolarmente, perché la crisi accentua e contribuisce ad accrescere ansie e paure che possono incidere in modo negativo sulla salute mentale, e quindi ben venga una giornata che ci aiuta a riflettere. Naturalmente noi ci auguriamo che non sia solamente una giornata, ma sia, no, un campanellino che ci tiene vivo questa è la nostra attenzione per tutto il resto dell'anno. Ma certo, un'attenzione continua, meglio. Il progetto Itaca lavora da 15 anni in prima linea per sostenere chi è affetto da disagio psichico, scende in campo con una campagna anche di sensibilizzazione e raccolta fondi. Sì, in questo momento, proprio in concomitanza col periodo della salute mentale, noi abbiamo pensato a una campagna SMS che ahimè finisce domenica, e con un orientamento appunto soprattutto verso i giovani, perché nei giovani il disagio psichico è continuamente in aumento, e quindi questa campagna vuole essere non soltanto una campagna di raccolta fondi, ma soprattutto di informazione, di sensibilizzazione, e noi abbiamo appunto un testimonial, Rudy Zerbi, che è giovane, che è conosciuto dai giovani, e quindi speriamo che tramite il suo aiuto, attraverso il suo aiuto, il messaggio arrivi ai ragazzi. Un messaggio arrivi ai ragazzi e ai genitori: non bisogna avere paura, non bisogna vergognarsi, bisogna cercare aiuto. Esattamente, bisogna guardare con attenzione i fratelli, le sorelle, gli compagni di scuola, e bisogna confidarsi, non aver paura di parlarne e andare da un medico, perché il disagio psichico, certo, le malattie psichiche si curano come altre malattie. Allora io vi rimando al sito di progettoitaca.org, dove potete trovare tutte le informazioni, indirizzi e anche la campagna. Grazie a Liana Rosenthal. Campagna, per cortesia, il numero è 45598 fino a domenica. Cuore e denari. Mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Non so se concordate con me, il telefono è un oggetto che a volte si comporta proprio al contrario di come vorremmo, ci disorienta un po'. Vi sarà capitato, quando aspettiamo una telefonata non arriva, quando vorremmo stare tranquilli, eccola, suona. A volte ad assillarci è proprio il suo silenzio, a volte invece la sua suoneria, e nel momento in cui ci allontaniamo è un classico, troviamo che la telefonata tanto attesa è arrivata ma noi non c'eravamo. Non parliamo poi di quando il telefono suona e dall'altra parte c'è qualcuno che non vorremmo sentire, o peggio ancora non c'è nessuno. A parte gli scherzi, una telefonata muta può anche spaventare, è una pratica che spesso si abbina ai malintenzionati, ai molestatori, ma molto più spesso si tratta banalmente di pratiche commerciali scorrette. Di questo vogliamo parlare oggi insieme al nostro esperto, il dottor Luca Bolognini, che è presidente dell'Istituto Italiano per la Privacy. Buongiorno dottor Bolognini. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Le è capitato di ricevere telefonate mute o telefonate parlanti con proposte un po' invadenti e incalzanti? Beh, anche a lei? Telefonate parlanti sì, spesso. Telefonate mute, devo dire la verità, a me non è mai capitato, e è capitato ad alcuni clienti, naturalmente facendo l'avvocato in queste materie queste cose possono accadere frequentemente. Entrambe le cose comunque presentano profili di fastidio pesante per chi riceve questo tipo di intrusioni vere e proprie nella propria vita privata. E allora chiediamo a voi che ci state ascoltando di chiamare l'800 24 0024, di non stare muti, ma di raccontarci se vi è capitato di ricevere telefonate di questo tipo, erano frequenti, avete capito da chi arrivavano, come avete fatto e come vi siete comportati. All'origine, avvocato Bolognini, di queste telefonate potrebbero esserci delle proposte di marketing un po' aggressive. Parlo delle telefonate in cui noi alziamo la cornetta e di là non c'è nessuno, sentiamo dei rumori di sottofondo oppure proprio il silenzio. Come facciamo però a tranquillizzarci? Perché tra il molestatore e un call center, io preferisco il call center. Ecco, come facciamo a capire che si tratta di un call center, di una proposta? Questo è stato proprio uno dei dubbi che si è posto il garante privacy quando ha fatto un provvedimento per i call center. Perché i call center fanno le telefonate mute? Perché utilizzano dei software per ottimizzare le chiamate e in pratica partono più chiamate di quelle che gli operatori del call center riescono poi a gestire. Sì. E che cosa succede quindi? Che noi rispondiamo e pensiamo che dall'altra parte ci sia un molestatore. Allora il garante si è posto questo dubbio e ha imposto, tra le altre cose, con un suo provvedimento che è entrato pienamente in efficacia da pochissimi giorni, sì, che si debba tenere un comfort noise, un rumore di sottofondo che indichi il rumore di un ufficio, sì, di un call center, in maniera tale che anche in quei 3 secondi di silenzio io possa rendermi conto del fatto che non è un molestatore ma è evidentemente un call center, anche se nessuno mi sta parlando. Questa è una misura che può apparire curiosa, ma veramente molto utile, perché se no si ingenera angoscia. Noi non sappiamo se dall'altra parte ci sia effettivamente un molestatore o meno. Una persona che ha bisogno di aiuto, ad esempio, e che non riesce a parlare. Avvocato, lei mi sa, io come donna di cuore penso subito alle persone che hanno bisogno di aiuto, vogliono mettersi in contatto con noi, noi non possiamo andare in loro soccorso. Lei ha parlato di 3 secondi. 3 secondi devono durare queste telefonate mute con il sottofondo del call center che ci aiuta a capire che arrivano proprio da loro? E sì, questa non ho dato i numeri, è un numero effettivamente previsto dal garante che impone che il massimo sia di 3 secondi. Più di 3 secondi sono telefonate mute intollerabili, e quindi noi possiamo immaginare una telefonata che a causa di questi sistemi, di questi programmi, abbia i primi 3 secondi silenziosi, al massimo 3 secondi, e comunque non possono ripetersi queste telefonate mute più volte nei confronti di una stessa persona. Nel momento in cui una persona, dice il garante, abbia ricevuto già una di queste telefonate mute, la volta successiva, e la telefonata poi non sia diventata una telefonata invece parlata, la volta successiva deve essere necessariamente richiamato con certezza che dal primo secondo risponda un operatore, però appunto non più di 3 secondi. Mute parlanti, noi riceviamo spesso delle telefonate proprio magari in dei momenti particolari della nostra giornata, naturalmente quando siamo a casa, a pranzo con la nostra famiglia o a cena, arrivano queste proposte. Carmelo me le segnala, che regge la parte tecnica. Mi state disturbando molto Carmelo, ve lo dico. Allora, intanto chiederemo all'avvocato Bolognini, che ci ha spiegato quali sono le caratteristiche di queste telefonate mute, come possiamo tranquillizzarci. Proprio questo rumorino di sottofondo, questa durata dei 3 secondi, può farci rassicurare e pensare che dietro c'è una proposta che sta per arrivare. Intanto stanno arrivando anche le vostre telefonate. Abbiamo Daniela da Trieste e Raffaele da Roma. Do la precedenza a Daniela. Buongiorno. Benvenuta. Io ho ricevuto sia telefonate parlanti sia telefonate mute addirittura 2 giorni fa. Con rumori di ufficio, sì, senza uno sottofondo. Allora l'avvocato dice stiamo tranquilli. No, perché io sono iscritta all'elenco degli oppositori e noti che queste telefonate, per quel che so io, arrivano solo ai telefoni fissi. Sì. E, essendo iscritta all'elenco degli oppositori, ho diritto di essere lasciata in pace. Ho preso contatto con l'autorità della privacy, c'è una pratica abbastanza lunga, però viene poi comminata solo una multa. Questo non demorde assolutamente, in particolare le società telefoniche. A questo punto io faccio una proposta, perché anche una telefonata magari muta, che non fa paura, che non dà argomento, significa che una persona sta pulendo oppure è indaffarata, sta lavorando. Ecco, sta girando la frittata, risponde. Tutto, magari lavora, insomma, interrompe tutto, certo. Ma scherziamo. Questo talvolta anche 1 o 2 volte al giorno, sempre dalla stessa società telefonica. Quindi è una forma veramente vissuta come persecutoria. Loro dicono che prendono i numeri dai supermercati, uno va a fare spesa e poi prendono le liste. Allora, Daniela, la sua telefonata offre tantissimi spunti a noi, all'avvocato Bolognini, per fare chiarezza. Intanto l'elenco degli oppositori a cui suggeriamo a Carmelo di iscriversi. Dottor avvocato Bolognini. Sì, il registro delle opposizioni è un elenco appunto a cui possiamo iscriverci se abbiamo il nostro numero pubblicato sugli elenchi telefonici. Perché? Perché se abbiamo il numero pubblicato sugli elenchi telefonici, quelli che tutti noi riceviamo a casa, possiamo essere contattati senza il nostro previo consenso da compagnie che fanno pubblicità, che fanno telemarketing. L'unico modo per difendersi veramente appunto è iscriversi su questo registro. Il problema qual è? È che spesso i nostri numeri di telefono non vengono presi dagli elenchi telefonici che porterebbero a rispettare il registro delle opposizioni, ma vengono presi da altri mercanti, altri list broker, per esempio i listaroli nel gergo di chi fa questo tipo i listaroli. I listaroli che naturalmente che cosa fanno? Prendono nostri dati e li cedono. Quindi i nostri dati viaggiano, avvocato. Allora, in alcuni casi, queste cessioni di dati sono legittime. Perché? Perché abbiamo messo la firmetta nel posto sbagliato, perché abbiamo messo il sì laddove non dovevamo metterlo. Mi faccia qualche esempio. Quelli dove cadiamo più frequentemente. Sì. Ah, beh, sono in un supermercato e firmo tutti i sì di una carta fedeltà. Sono in un albergo e firmo tutti i sì anche per la cessione dei dati a terzi per fini di marketing. Ecco, questi sono momenti in cui stare molto attenti ai sì e ai no che mettiamo. In altri casi invece si tratta proprio di un mercato nero delle liste che naturalmente è del tutto intollerabile, del tutto illegittimo. In tutti questi casi poi c'è il problema dell'autodifesa, perché nel bene e nel male bisogna riuscire a difendersi e spesso quando si ha a che fare con un operatore di call center, in particolare un operatore poco formato, diventa difficile poi ottenere veramente il rispetto dei propri diritti. Io dico all'operatore al telefono non mi chiamate più, ma questo operatore starà annotando, come dovrebbe per legge, il fatto che io sto dicendo basta? Questo purtroppo spesso non accade. Andiamo alle nostre telefonate. Mi sembra che la situazione sia abbastanza complicata. Gli ascoltatori anche via SMS, avvocato Bolognini, sono un po' sconfortati. Insomma, sembra che non abbiamo strumenti per toglierci da questo circolo di telefonate e quindi molti lamentano che sono anche disturbati addirittura anche nella notte e non è un solo ad ascoltatore a raccontarlo. Andiamo a Paolo che ci chiama da Terni e poi a Raffaele da Roma. Paolo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie signora, è un piacere parlare con lei. Anche da parte mia, Paolo, A parte questa situazione un po' difficile, perché questa telefonata sta diventando veramente un grosso problema. Noi a casa, noi ci riuniamo a ora di pranzo, siamo costretti a staccare il telefono. Abbiamo dei ragazzi in giro che perché se no non si mangia, non si può riposare. Abbiamo fatto il registro opposizione, come diceva l'avvocato, ma in realtà questo registro è un grosso fallimento, no? Perché permette a tutti, tramite vie traverse, di romperci le scatole. E certo. Nicoletta, perché è il problema è della legge. Guardi, Paolo, anche a me capita, appena mi siedo a cena, anche ormai a Carmelo, che insomma è una telefonata per cui lui si appassiona, devo dire che partono le telefonate con le varie promozioni. No. E poi però se si hanno figli in giro, è vero che c'è il cellulare, ma insomma staccare proprio il telefono a meno lascia tranquillo dei genitori in un'altra città. Allora, avvocato Bolognini, che cosa possiamo fare? Beh, diciamo che qualcosa il registro non piace molto, glielo devo dire. Non piace molto, ma in realtà è stato comunque un modo per dare più strumenti di tutela e più consapevolezza agli utenti, e quindi è una cosa in ogni caso buona. Per quanto riguarda l'autodifesa, qualcosa che funziona c'è, il garante è solerte. Io mi rendo conto che si possa dire sì, vabbè, ma il garante dopo tutto porta solo a delle sanzioni, ma non sono delle sanzioni banali, sono multe da 10 a 120 mila euro per ogni violazione, sono sanzioni che fanno male. Poi non dimentichiamo che la Cassazione stessa ha riconosciuto persino la responsabilità penale nel caso di intrusioni, di spam nella nostra vita. Più difficile riuscire ad ottenere addirittura un risarcimento danni sul piano civile, perché bisognerebbe dimostrare quantomeno una sofferenza morale molto accentuata. Però io concretamente che cosa posso fare? Allora, rivolgersi al garante è la cosa migliore, è una cosa che non costa o costa pochissimo per il cittadino. Il garante è molto efficiente, il garante per la protezione dei dati personali, reperibile a garanteprivacy.it, è la strada perfetta per dire basta veramente e per farla pagare nel senso buono, nel senso legittimo, a chi ci invade la vita nei momenti meno opportuni contro la nostra volontà. Avvocato, ma quale informazioni dobbiamo essere in grado di dare? Bisogna essere precisi, allora, per naturalmente scomodare il garante. Peraltro, tenete presente che c'è una regola di legge da alcuni anni per cui chi ci chiama non può utilizzare un numero privato. Però è anche vero che certe volte noi riceviamo comunque telefonate da numero privato, oppure quando ci chiamano sul fisso magari non abbiamo la visualizzazione del numero. Bene, in questi casi si chiede al garante anche di accertare chi sia stato che ci ha disturbato. Noi potremmo non essere in grado di ottenere questa informazione direttamente, un'istruttoria dell'autorità competente lo è senza dubbio. Quindi non fermiamoci davanti semplicemente allo sconforto di non sapere chi ci sta chiamando, chi c'è dall'altra parte. C'è una tutela, il garante è abituato a risalire a questo tipo di informazioni e, ripeto, è uno strumento, l'autorità indipendente, creato anche e soprattutto per rendere possibile l'esercizio rispetto dei diritti nei confronti dei semplici cittadini. Non c'è bisogno di un avvocato necessariamente, ecco, questa è una cosa importante da dire agli ascoltatori. Andiamo ad Andrea che ci chiama da Livorno all'800240024. Buongiorno Andrea, torna sul tema delle telefonate mute. Buongiorno. Buongiorno. Senta, intanto vi ringrazio per aver fatto una trasmissione su questo argomento perché è veramente odioso. Allora, devo raccontare, più che altro sto parlando per mia madre. Mia madre sta ricevendo delle telefonate, in alcuni giorni siamo arrivati anche a 10 telefonate al giorno di un numero sconosciuto, a cui lei risponde, però non c'è nessun rumore, né rumore d'ufficio, niente, è come se si fosse all'interno di un sistema, capito? Una cosa più elettronica, non, assolutamente nessun tipo di rumore. E questa telefonata dura fino a quando non la chiudiamo noi, perché sennò... Altro che tre secondi, ecco. No, potrebbe essere anche due ore, non c'è problema. Allora, succede anche la notte, anche la notte è successo molto spesso. Ora in parte ha già risposto. Perché sì, sentiamo, noi siamo in chiusura, Andrea, nel caso scriveteci, Avvocato Bolognini, in 30 secondi. Non, sono delle telefonate che durano a lungo, più volte durante nel corso della giornata. Quale... è proprio una violazione pari pari dell'ultimo provvedimento del garante, quindi fare una segnalazione che non costa nulla al garante per la protezione dei dati personali o addirittura un reclamo. Rivolgersi con fiducia perché il garante avvia il procedimento e sicuramente risolverà questo tipo di problema. Grazie all'avvocato Bolognini per essere stato con noi, grazie, le auguro una buona giornata, buon weekend anche a voi, torniamo con Deborah lunedì alle 11, vi aspettiamo.